vederlo. Di alla luna che venga, che io non voglio vedere il sangue di Ignazio sopra l'arena. Non voglio vederlo. La luna spalancata, cavallo di quiete nubi e l'arena grigia del sonno con salici sullo steccato. Non voglio vederlo. Il mio ricordo si brucia, ditelo ai gelsomini con il loro piccolo bianco. Non voglio vederlo. La vacca del vecchio mondo passava la sua triste lingua sopra un muso di sangue sparso sopra l'arena e i tori di Ghisando, quasi morte e quasi pietra, muggirono come due secoli stanchi di battere la terra. No! Non voglio vederlo! Sui gradini salì Ignazio con tutta la sua morte addosso. Cercava l'alba, ma alba non era. Cerca il suo dritto profilo e il sogno lo disorienta. Cercava il suo bel corpo e trovò il suo sangue aperto. Non ditemi di vederlo. Non voglio sentire lo zampillo ogni volta con meno forza. Questo getto che illumina le gradinate e si rovescia sopra il velluto e il cuoio della folla assetata. Chi mi grida ad affacciarmi? Non ditemi di vederlo! Non si chiusero i suoi occhi quando vide le corna vicino, ma le madri terribili alzarono la testa e dagli allevamenti venne un vento di voci segrete che gridava nei tori celesti, mandriani di pallida nebbia. Non ci fu principe di Siviglia da potergli paragonare, né spada come la sua spada, né cuore così vero. Come un fiume di leoni la sua forza meravigliosa, è come un torso marmoreo la sua armoniosa prudenza. Aria di Roma andalusa gli profumava la testa, dove il suo riso era un nardo di sale e di intelligenza. Che gran torero nell'arena, che buon montanaro sulle montagne, come delicato con le spighe, come duro con gli speroni, tenero con la rugiada, abbagliante nella fiera, tremendo con le ultime banderiglias di tenebra. Ma ormai dorme senza fine. Ormai i muschi e le erbe aprono con dita sicure il fiore del suo teschio. E già viene cantando il suo sangue, cantando per maremme e praterie, sdrucciolando sulle corna intirizzite, vacillando senza anima nella nebbia, inciampando con mille zoccoli come una lunga, scura, triste lingua per formare una pozza d'agonia vicino al Guadalquivir delle stelle. Oh bianco muro di Spagna! Oh nero toro di pena! Oh sangue forte di Ignazio! Oh, usignolo delle sue vene! No! Non voglio vederlo! Non c'è calice che lo contenga, non rondini che se lo bevano, non c'è brina di luce che lo ghiacci, né canto né diluvio di gigli, non c'è cristallo che lo copra d'argento! No! Io non voglio vederlo!